Finalmente una mattina il cielo tornò sereno e il sole cominciò a risplendere. Mary si svegliò presto. Il sole filtrava attraverso le tende e quella vista dava tanta allegria che Mary balzò fuori dal letto, corse alla finestra, tirò le tende, aprì i vetri e respirò a pieni polmoni l'aria fresca. La brughiera aveva quel suo colore azzurrino dei giorni sereni e tutto il mondo sembrava nuovo, come se una magia, un incantesimo, lo avesse reso più bello, lavato, pulito. Si sentivano dei fruscii, dei ciangottii, dei pigolii fra gli arbusti, nei cespugli. La vita riprendeva con gioia. Si sentiva cinguettare sui rami degli alberi in un modo che faceva pensare ai professori d'orchestra quando accordano gli strumenti prima di iniziare un concerto. Mary espose il palmo di una mano al sole. «Com'è caldo, caldo!» esclamò. «Farà germogliare i bulbi e farà crescere le foglie alte alte e le radici sottoterra si allungheranno sempre più e diventeranno una base ben solida per le piante». Si sporse quanto più poté dal davanzale e aspirò profondamente con il naso quell'aria ossigenata e fresca. Una, due, tre volte. Poi scoppiò a ridere. Si era ricordata che la mamma di Deacon aveva detto che a furia di respirare aria fresca il naso di suo figlio era diventato come quello di un coniglio. «Deve essere molto presto», pensò. «Quelle piccole nubi nel cielo sono color rosa. Non avevo mai visto un cielo così limpido e questi colori. Dormono ancora tutti? Non sento neanche i mozzi di scuderia? Oh, devo andare subito a vedere il giardino». Era ormai diventata brava a vestirsi da sola, così in 5 minuti fu pronta. Volò giù per la scaletta che la portava alla piccola porta di servizio di cui sapeva aprire i catenacci, con le sole calze ai piedi e le scarpe in mano, per non far rumore. Arrivata nell'ingresso, si mise le scarpe, tolse la catena, sfilò il paletto più alto, poi l'altro, fece scattare la serratura, accompagnandola con le mani per evitare che qualcuno sentisse, e appena la porta fu aperta, ne attraversò la soglia con un salto. Ed eccola sull'erba, che non era più secca, ma sembrava diventata verde per una magia notturna, con il sole che la avvolgeva e la scaldava con i suoi raggi lucenti, mentre tutti intorno a lei si udivano fremiti di vita. Strinse le mani, quasi volesse afferrare quegli attimi di gioia intensa. Guardò su, verso il cielo, e lo vide così azzurro e rosa e color di perla in quella luce chiara di primavera che lo inondava, che si sentì così leggera, come se anche lei potesse volare, potesse salire su una di quelle nuvole, potesse unirsi al coro di tutti gli uccelli che si svegliavano e salutavano il sole. Rimase così per qualche attimo, poi si inoltrò correndo per i sentieri fra gli arbusti verso il giardino segreto. «Com'è tutto diverso», osservò. «L'erba è diventata verde in molti punti, si vedono spuntare piantine nuove da tutte le parti e le piante vecchie si coprono di gemme. Sono sicura che questo pomeriggio Deacon si farà vedere». La pioggia tiepida di primavera aveva fatto spuntare nuovi germogli, perfino nelle radici delle piante che affioravano nel terreno e si vedevano qua e là bagliori di viola acceso e di giallo svettare fra gli steli dei crocus. Se Mary avesse fatto la stessa passeggiata 6 mesi prima, probabilmente non avrebbe notato nessuno di questi particolari. Ora invece i suoi occhi non perdevano niente. Quando raggiunse la porta nascosta dall'edera, trasalì per uno strano rumore. Veniva dalla sommità del muro. Alzò gli occhi, trepidando, e vide un bellissimo corvo con delle lucenti penne blu nere che la guardava con un'aria da grande saggio. Ma lei non aveva mai visto un corvo così grande e così da vicino e ne ebbe quasi un po' paura, ma lui aprì improvvisamente le sue grandi ali e volò all'interno del giardino. Lei si augurò di non trovarlo dentro, entrando. Spinse la porta con un po' di apprensione e girò lo sguardo intorno, sperando di non vederlo. Purtroppo era là, invece, appollaiato sul ramo di un albero e non mostrava nessuna intenzione di andarsene. Ai piedi del melonano, sul quale il corvo aveva preso dimora, c'era bello pacifico un volpacchiotto dal pelo rossiccio e dalla coda folta, ma pochi passi da loro, Mary scorse infine, inginocchiato in terra, la testa dai capelli rossi china verso le piante, il suo caro Deacon. Attraversò di corsa il prato. Oh, Deacon, Deacon! Gridò, dimenticando le precauzioni. Come hai fatto ad arrivare così presto? A che ora ti sei alzato? Il sole è appena sorto. Deacon si alzò in piedi, sorridente, accaldato, con i capelli in disordine. I suoi occhi avevano proprio il colore del cielo. Disse, mi sono alzato prima di lui. Come avrei potuto restare a letto? Il mondo è rinato stamattina. Appena ho sentito dal canto degli uccelli che c'era bel tempo, sono saltato su e via. La brughiera era stupenda stamattina. Io correvo come una lepre matta, cantando e saltando. Sono arrivato fin qui senza accorgermene. Non ne potevo più, sai, pensavo al giardino che mi stava aspettando. Mary si portò le mani alle tempie, quasi volesse calmare il pulsare del cuore. Dicon, dicon, sono così felice che mi manca quasi il respiro. Vedendo il loro amico parlare con una persona sconosciuta, il volpacchiotto si avvicinò ai piedi di Deacon e il corvo gli volò su una spalla. Vedi la mia piccola volpe? Presentò Deacon, grattando la testa dell'animale. L'ho chiamata Cap. Sta per capitano. E qui sulla mia spalla sta Fuli. Sta per Fuligine. Sono venuti con me da casa perché avevano voglia di correre anche loro un po' stamattina. Nell'uno nell'altro degli animali sembrava avere un'ombra di timore per la presenza di Mary. Quando Deacon cominciò a muoversi per il giardino, il corvo rimase sulla sua spalla e la volpe continuò a trotterellare sempre dietro. Guarda qui, diceva Deacon, fermandosi quella. Guarda queste piante come sono cresciute e queste altre. Oh, guarda qui. Si inginocchiava ogni tanto per guardare meglio e Mary faceva lo stesso. A un certo punto arrivarono vicino a un gruppo di crocus che erano sbocciati in una sinfonia meravigliosa di colori viola, arancione e giallo. Mary vi tuffò il viso e li baciò con tenerezza. Non potrei mai baciare una persona così, disse sollevando il viso, ma i fiori sono così differenti. Lui la guardò con il suo viso a punto interrogativo e sorrise. A me è capitato di baciare così la mamma tante volte quando tornando a casa dopo un giorno intero di corse e giochi nella brughiera la trovavo ad aspettarmi sulla soglia di casa con il sole del tramonto che le rischiarava quel suo viso sempre affettuoso e sereno. Continuarono ad andare di qua e di là per il giardino chiamandosi per mostrarsi le novità e spesso dovevano ricordarsi l'un l'altro di parlare piano perché l'entusiasmo era così tanto che le precauzioni venivano un po' dimenticate. Deacon mostrò a Mary degli ingrossamenti sui rami di alcuni rosai che prima sembravano morti. Erano le gemme che indicavano la prossima nascita di foglie verdi e poi delle rose. Le mostrò decine e decine di puntolini verdi che uscivano dal terriccio umido. Annusarono tutti e due con gioia il profumo che usciva dalla terra bagnata e riscaldata dal sole. Corsero e lavorarono finché i capelli di Mary divennero così scompigliati e le gote così rosse come quelle di Deacon. Era una mattina stupenda quella che stavano vivendo nel giardino segreto, e a un certo punto accadde una cosa che la rese ancora più bella. Si udì un frullare d'ali e si vide un corpicino dal petto rosso che sfrecciò rapido fra i rami degli alberi e andò a posarsi in un angolino protetto e nascosto, portando qualcosa nel becco. Deacon si mise immobile e muto e mise una mano sulla spalla a Mary perché facesse lo stesso. Poi sussurrò in dialetto: Non dobbiamo assolutamente muoverci, solo respirare. Il petirosso di Ben. Sapevo che stava cercando una compagna quando l'ho visto l'ultima volta, ma ora sta costruendo il nido. Vuol dire che l'ha trovata. Se stiamo fermi fermi non si spaventerà e continuerà il suo lavoro. Adagio adagio si lasciarono scivolare sull'erba e si sedettero senza fare movimenti bruschi, senza far rumore. Non dobbiamo dargli l'impressione di spiarlo, ci lascerebbe per sempre se pensasse che stiamo ficcando il naso negli affari suoi. Ora è in un momento molto delicato della sua vita. Sta mettendo su casa. Ha più paure del solito e più diffidente. Non ha tempo per le visite e le chiacchiere. Noi dobbiamo comportarci come se fossimo due fili d'erba o due alberi. O due cespugli. Poi, quando sarà abituato alla nostra presenza, io lo chiamerò piano piano e gli dirò che non vogliamo disturbarlo. Mary non era del tutto sicura di riuscire a fare quello che Deacon aveva suggerito. Come si fa a far finta di essere un filo d'erba o un albero o un cespuglio? Ma lui l'aveva detto come se fosse una cosa così semplice e così naturale che lei non gli toglieva gli occhi di dosso per vedere se per caso cominciava a diventare verde o a ramificarsi mettendo fuori foglie e magari anche fiori. Ma lui sedeva semplicemente sull'erba e rimaneva tale e quale era prima. Stava solo, assolutamente immobile. E quando parlava aveva un tono di voce così basso che Mary si meravigliò di riuscire a udire cosa diceva. Tutti gli uccelli fanno il nido a primavera, spiegava lui. È stato così sempre, da che mondo è mondo. Gli uccelli pensano e fanno le cose in un modo tutto particolare, diverso dagli altri animali. Non si deve metterci né sale né pepe. Si può perdere l'amicizia di un uccello in primavera più facilmente che in qualsiasi altro periodo dell'anno se si vuole curiosare troppo. Se continuiamo a parlare di lui, non posso fare a meno di guardarlo, disse Mary più piano che poté. Parliamo d'altro, voglio raccontarti una cosa. Sì, anche a lui farà piacere se cambiamo argomento. Che cos'hai di bello da dirmi? Dimmi, tu sai qualcosa di Colin? Bisbigliò lei. Deacon girò il viso e la fissò spaventato negli occhi. Tu cosa sai di lui? Io l'ho visto. Sono stata a parlare con lui tutti i giorni durante questa settimana. Lui vuole che vada a trovarlo ogni giorno. Dice che gli faccio dimenticare le sue malattie e i suoi pensieri di morte. Ah, Deacon respirò di sollievo e la faccia tornò serena e chiara. Come sono felice di sentire queste cose, disse. Non mi sembra vero di poter parlare apertamente con te anche di questo argomento. Sai, mi avevano proibito di parlartene, a me non piace avere segreti. Al giardino, allora? Chiese Mary. Senti, io ti ho promesso che non ti tradirò e non lo farò. Ma ho detto alla mamma, ho un segreto da mantenere. Non è niente di brutto o cattivo, è qualcosa come il non dire dove è il nido di un uccello a chi potrebbe disturbarlo. Ti dispiace che abbia questo segreto? A Mary piaceva sempre quando Marta o lui le parlavano della mamma. E lei cosa ha detto? Deacon fece una buffa smorfia che esprimeva gioia e simpatia. Ha detto quello che mi aspettavo. Mi ha preso per i capelli, mi ha scosso un po' la testa, poi ha detto, Deacon, tu puoi avere tutti i segreti che vuoi. Ti conosco da 12 anni. So che non possono essere segreti cattivi. Ma di Colin cosa sai tu esattamente? Ma a quello che sanno tutti qua in giro, che è figlio di Mr. Craven, che è malato, che è storpio, che suo papà non vuole che se ne parli. La gente ha pena di questo bambino perché la sua mamma era molto gentile con tutti e quando era viva lei, la vita a Miss Elthwaite era molto diversa. Mr. Craven non viaggiava allora, erano una coppia felice, sai. Ma tu come hai fatto a scoprire la sua esistenza? Marta era preoccupata l'ultima volta che venne a casa. Ci raccontò che l'avevate sentito piangere, che tu avevi fatto domande su domande e lei non sapeva più cosa rispondere. Mary cominciò allora a raccontare la storia, partendo da quella notte con il vento e la pioggia che non la lasciavano dormire. Pensa, Mary, che cosa orribile. Mr. Craven non vuole vedere suo figlio, così almeno ho sentito dire, perché gli ricorda troppo sua moglie. Va a vederlo quando dorme perché almeno ha gli occhi chiusi e non sembra tanto triste. Ma tu pensi che sarebbe contento se Colin morisse? No, ma avrebbe preferito che non fosse nato. La mia mamma dice che è la cosa peggiore che possa capitare a un bambino che non si sente desiderato appassisce come un fiore abbandonato. Colin ha tutto quello che i soldi possono comprare, ma il suo papà è un estraneo per lui. Ha dimenticato di averlo, ha paura di vederlo crescere storpio, non accetta l'idea di quella spina dorsale curva. Colin ha paura anche lui di questo, tanto che sta sempre sdraiato. Dice che controlla ogni giorno la sua schiena per vedere se gli spunta un bozzo. Quando lo scoprirà si metterà a urlare così forte che a un certo punto morirà. Beh, se sta tutto il tempo a pensare a queste cose, per forza sta male e peggiorerà sempre, commentò Deacon. La volpe si era accomodata ai piedi del ragazzo e lui ogni tanto le grattava la testa o il collo. Dopo un po' guardò Mary e disse: La prima volta che siamo venuti qui tutto ci è sembrato triste, morto. Guardati in giro adesso e dimmi se non ti sembra un altro questo giardino. Mary volse il suo sguardo intorno. E come? Guarda sul muro quel manto grigio dei rapi senza foglie e ora come trapuntato da piccole stelle verdi. E diventerà sempre più verde finché tutto il grigio scomparirà. Indovina a cosa sto pensando. Deve essere una cosa bella, rispose immediatamente Mary, e chissà perché, ma penso che deve entrarci Colin. Sì, stavo pensando che se potessimo portarlo qui, non lasceremmo il tempo di andare a cercare i suoi bozzi sulla schiena. Avrebbe da fare a scoprire le gemme che si gonfiano sui rami dei rosai e si sentirebbe meglio, sono sicuro. Pensa se riuscissimo a farlo venire qui con la sua carrozzina, a sedersi sotto uno di questi pergolati o di questi alberi. Stai pensando come me, esclamò Mary. T'ho pensato tutte le volte che parlavo con lui. Io non so ancora se lui sarebbe capace di mantenere un segreto, se si potesse riuscire a portarlo qui senza che nessuno se ne accorgesse. Ho pensato anche che forse tu potresti aiutare con la carrozzella. Un dottore ha detto che l'aria aperta gli farebbe bene e se Colin decidesse di uscire, nessuno potrebbe impedirglielo. Lui non vuole uscire perché non vuole vedere gente ed essere guardato dalla gente soprattutto, ma forse con noi sarebbe diverso. Potrebbe dare ordine ai giardinieri di tenersi alla larga e così nessuno saprebbe niente. Deacon pensava intensamente. Si vedeva da come grattava la schiena di Cap. Oh, gli farebbe bene, sono sicuro, stare con noi. Noi non penseremo mai che sarebbe meglio che non fosse nato, vero? Eravamo in due a guardare la primavera in questo giardino. Saremo in tre. Penso che sarà la cura migliore per lui. Nessun medico potrebbe dargli di più. È disteso là, nella sua stanza, da tanto tempo, e sempre con quella storia dei bozzi che devono spuntare, che è diventato un po' strano. Cercò di spiegare Mary. Ha letto tanti libri e ha imparato un sacco di cose, ma solo quelle dei libri. Dice che è troppo malato per guardarsi intorno, per occuparsi delle cose che succedono intorno a lui. Non sopporta l'idea di uscire, odia giardini e giardinieri. Però gli è piaciuto ascoltarmi parlare del nostro giardino, forse perché è un segreto. Io non gli ho spiegato tutto ancora, ma sono sicura che gli piacerebbe vederlo. Riusciremo a portarcelo un giorno o l'altro, vedrai, assicurò Deacon. Potrei benissimo occuparmi io della carrozzina, portarla su e giù per le scale, spingerla per i viali. Hai notato quanto lavoro hanno fatto il Pettirosso e la sua compagna mentre noi stavamo qui a chiacchierare? Guardalo un attimo come sta pensando dove meglio mettere quel ramoscello che tiene nel becco, perché il nido venga costruito nel miglior modo. Fischiò con quella sua speciale modulazione che significava un richiamo, e il petirosso volse verso di lui la testina con l'occhio curioso, sempre tenendo il fuscello nel becco. Allora Deacon gli parlò un po' come faceva Ben, ma con un tono più cameratesco, più tenero. Cosa stai lì a pensare? Tu sapevi già come si costruisce un nido ancora prima di uscire dall'uovo. Hai già fatto un bellissimo lavoro. Coraggio, non c'è tempo da perdere. Come mi piace sentirti parlare con lui, esclamò Mary. Anche Ben parla con lui, ma ha sempre un tono di prendi in giro. Sono sicura che il Petirosso capisce tutto quello che gli dite e gli piace parlare con voi. Ben dice che è così vanitoso che preferirebbe essere preso a sassate piuttosto che ignorato. Risero tutti e due. Poi Deacon si rivolse ancora all'uccellino. Sai che noi non ti daremo fastidio, vero? Siamo quasi anche noi due animaletti selvatici, vedi? Stiamo costruendo un nido anche noi. Guardati intorno. Noi ti lasciamo stare nel nostro segreto. Vedi? Puoi fidarti di noi. Il Pettirosso non poteva rispondere perché aveva sempre il suo bastoncino nel becco, ma Mary capì quando lo vide volar via e dirigersi verso l'angolino dove c'era la sua compagna e il nido già cominciato, che lo sguardo di quegli occhi di rugiada nera esprimeva amicizia, lealtà e gratitudine. Nessuno di loro avrebbe tradito il segreto degli altri. Capitolo 16. Lo voglio, disse Mary. Ebbero molto da fare quella mattina. Mary tornò a casa in ritardo per il pranzo e aveva tanta fretta di tornare nel suo giardino che si ricordò di Colin solo al momento di uscire. Dì a Colin che non ho tempo di andare da lui per ora, ho molto da fare in giardino, disse a Marta quando fu sulla soglia. La ragazza la guardò, piuttosto sgomenta. Mio Dio, disse, spero che la prenda bene, ma ho molta paura che si arrabbierà. Mary però Non era per niente intimidita dall'umore di Colin e d'altra parte non era disposta a sacrificare niente di quello che poteva farle piacere in favore di qualcun altro. Oh, non posso restare neanche un minuto di più qui in casa. Adesso c'è Dicon che mi aspetta. E corse via. Durante il pomeriggio lavorarono ancora con più gusto e più assiduità di quanto non avevano fatto la mattina. Ormai tutte le erbacce più grosse erano state estirpate e la maggior parte degli alberi e dei rosai erano stati potati. Si era anche vangato per rimuovere ed aereare la terra intorno alle radici. Dicon aveva portato un badile più grosso per sé, in modo che Mary potesse usare i suoi utensili per fare i lavori meno pesanti. Andavano molto d'accordo. Nessuno dei due cercava di appioppare all'altro le cose più noiose o più difficili da fare. Qui c'è un melo, qui un ciliegio, qui un pesco, qui un susino. Quando saranno tutti in fiore sarà una meraviglia e questo prato sarà verde d'erba, ma anche pieno di piccoli fiori coloratissimi, diceva Deacon mentre lavorava. La piccola volpe e il corvo erano felici e indaffarati anche loro, e il petirosso e la sua compagna sfrecciavano continuamente da e verso il nido, portando pagliuzze, intrecciandole, riposandosi un po', ripartendo. E il corvo partiva per viaggi più lunghi sugli alberi lontani del parco, e quando tornava si fermava su qualche ramo vicino a Deacon, e sembrava volergli raccontare tutte le sue avventure. Deacon gli rispondeva come faceva con il petirosso. Una volta il ragazzo non fu pronto a rispondere, occupato com'era nel suo lavoro, e Fuli volò sulla sua spalla e gentilmente cominciò a beccargli il lobo dell'orecchio con il suo grosso becco per attirare l'attenzione. A un certo punto Mary si sentì stanca e volle riposarsi un poco. Si sedettero tutti e due sotto un albero e Deacon trasse di tasca la sua armonica a bocca e cominciò a suonare la sua strana canzone che chiamava gli animali. Di lì a poco ecco due scoiattoli apparire alla sommità del muro e fermarsi lì ad ascoltare. Il sole stava tramontando e mandava i suoi raggi d'oro ormai inclinati attraverso le più basse fronde degli alberi. Dobbiamo andare ora. È tardi, disse Deacon. Ma domani sarà certamente bel tempo, io sarò qui al sorgere del sole. E io lo stesso, promise Mary. Corse a casa, più svelta che poté. Era ansiosa di raccontare a Colin tutte le meraviglie di quel giorno, della volpe, del corvo, della primavera, dei progressi delle piante nel giardino. Ma quando aprì la porta della sua stanza, fu come se ricevesse una doccia fredda. Marta l'aspettava con un viso molto serio e l'aria addolorata. Cosa c'è, Marta? Chiese preoccupata. Cosa ha detto Colin quando gli hai detto che non potevo andare da lui? Avrei voluto che fossi tu al mio posto, rispose Marta. Ha piantato una di quelle grane che ci ha tenuti sottosopra per tutto il pomeriggio. Non faceva che chiedere loro ogni 2 minuti. Non ci lasciava in pace. Noi avevamo paura di una di quelle sue terribili crisi. Mary strinse forte le labbra. Non era abituata a tener conto dei desideri degli altri, come del resto Colin. E non capiva perché lei avrebbe dovuto rinunciare a qualcosa che le piaceva tanto solo per far piacere a un ragazzino capriccioso ed egoista. Questo chiaramente perché lei stessa era egoista e perché nessuno le aveva insegnato mai che le persone malate hanno diritto ad una comprensione maggiore di una persona che sta bene e hanno più bisogno degli altri di affetto e compagnia. Quando viveva in India e le accadeva, per esempio, di avere mal di testa, lei faceva l'impossibile perché tutti si occupassero solo del suo mal di testa. Le sembrava logico, naturale, ed era convinta di aver ragione. Ora invece pensava che Colin avesse torto a pretendere da lei quello che lei stessa una volta pretendeva dagli altri.